asilo. Mancano 63 giorni alla fine del mondo. Hai sentito? Vabbè, dai, mancano 63 giorni alla fine del mondo. È bello che qualcuno magari ci crede pure, non so. Ma come? Ma per forza, è una profezia fatta perché qualcuno ci creda, no? Qualcuno ci creda. Ma il popolo, Drago. Il popolo, ma quale popolo? Il popolo degli esoterici. Il popolo degli iniziati. Ma sì, ma quali? Cosa c'entra internet? Iniziassero a essere meno creduloni questi esoterici, questi iniziati. Dai, questa è una profezia alla Giacobbo. Come può essere presa sul serio? Giacobbo. Che altro è una profezia alla Amoghe. Se ci vai a pensare, alla Amoghele. Amoghele. Amoghele. Amoghele. Amoghele. Ma come? Il tredicesimo appoggio? Non l'hai sentito? C'è anche il gospel su Amoghele. Comunque, Giacobbo. Giacobbo, io un po' me ne ero dimenticato, a dirti la verità. Ma di cosa? Di Giacobbo? Sì, perché il vero Giacobbo è stato rapito dagli alieni Maya adesso è in un'altra dimensione spazio-temporale. Mentre il Giacobbo che svolge il ruolo di vice direttore della Rai è un simulacro. Come un simulacro? È un automa, un surrogato. Un surrogato di Giacobbo. Che cosa resta? Andiamo bene. Ho studiato certe materie come la medicina, come la fisica. Vabbè, Giacobbo, come va lassù? Ma figurati. O laggiù, insomma. Ma come lassù o laggiù? Temporale. Quindi può essere anche giù. Su, dentro, fuori, sotto terra, soprattutto dentro, capisco, secondo vabbè. Me. Giacobbo! Ma dai, lascia stare Giacobbo, dai, cappa. Vabbè, ma dai, dacci almeno la combinazione del Super Enalotto. Giacobbo! Super Enalotto. Ma sì, tipo qualche. Ma chi gioca? Chi vince? Milan Inter. Ma cosa c'entra Super Enalotto? L'hanno già giocato, forse? Sì. Vedi. Forse allora Giacobbo ci può aiutare. L'hanno già giocata, Giacobbo! Dai, lo sanno tutti. Ha vinto l'Inter? Ma cos'è sta suoneria? Ma chi l'ha messa? Io non devo più dare il telefonino a Drago, che non lo sa usare. Aspetta un attimo qui com'è. Pronto? Pronto? Pronto? Età Manolito? Sì, che sorpresa Manolito! È stata una sorpresa también la visita di Lady Gaga a chi è l'ambasciata, signor. Ma come? Lady Gaga? Lady Gaga? Eh sì, infatti ho letto qualcosa sui giornali che insomma è venuta lì a trovare Assange all'ambasciata. È stato bello? È abbastanza bene. Vedi che c'è qualche vantaggio alla fine a tenere Julian Assange imboscato lì alla vostra ambasciata? Sì, hai potuto, Manolito, conoscere Lady Gaga. Magaras. Ma cos'è? Magaras. Vabbè, ma io sto spagnolo, equadoregno. Cioè, non l'hai conosciuta? No, signore. Ma perché? Ho letto, si è fermata lì 5 ore. Insomma, 5 ore. Il signor Assange mi ha conduito con l'inganno a dentro di un armadio molto grande. E pues mi ha serrato a dentro. Cioè, ti ha chiuso nell'armadio? Sì, signora, Assange. Hai prangata la puerta, in pratica. Ah? Ha sprangato la porta. La porta. No, in spagnolo è la concordancia. No, perché in italiano sarebbe ha sprangata la porta, perché sì, ha sprangato la porta. La concordancia. È la concordancia. Vabbè. Ma la secondo porta. Me, guarda che tu lo spagnolo vero non lo parli, perché il tuo è un po' strano. Comunque non ho capito, insomma, ti ha condotto con l'inganno in un armadio e ti ha chiuso dentro? E perché l'ha fatto? Para intrattenersi con la signorita Gaga. E si è intrattenuto a lungo, 5 ore. A boia, si è intrattenuto per 5 lunghe ore. Appunto, cincos. Cincos, concordanzia, certo. Quindi cincos horas, certo. Però poi comunque ti ha liberato, no? Sei uscito dall'armadio, adesso sei fuori. Però la signorita Gaga non stava mas. Era già andata via, comprende? Sì, vabbè. Vabbè, ma cosa avresti fatto poi tu con Lady Gaga? La conoscevi al massimo? Ti faceva... Mi farà l'autografo, appunto. Sì. Farà mia moglie, la stickers, e también una fotografia di me con Lady Gaga. Nada, come al solito, Manolito non obtiene nada del signor Assange. Suelo fregadura. Ma Manolito, ma sei sempre a lamentarti. Insomma, questa roba un po' sudamericana, c'hai, del lamento continuo. Ma alla fine perché hai chiamato allora, scusami? Intanto resta lì, Assange. Nada, mi sono affezionato a nostra telefonata. Sì. Sei molto gentile, Manolito, solo che vedi, io non ho molto tempo perché sono qui all'asilo, non sembrerebbe per lavorare, quindi ti saluterei, Manolito, eh? Sì, signora Sanche, arrivo, eh. No, signora Sanche, no, non deve andare vicino della finestra, altrimenti la CIA va a matarla. Quanta volta lo devo ripetere? Tanta pazienza. Manolito, smuglio treado. Eh? È treado, tengo le tre. Arrivo, signora Sanche, arrivo. Beh, vado, mamma mia, che tre, che tre. E tre. Ma cosa vuol dire E tre? Le orecchie sono rotonde. Allora perché sono strane? Non so che forma abbiano, ma va da qui a qui. Ora, questa può essere una chiara dimostrazione di buonsenso. Mi sa proprio che è buonsenso. Chiedo asilo! Il tuo amico Renzi, caro K, sta girando l'Italia col camper, grande successo. Sì, sì, come Barbie e Ken. Cosa c'entrano adesso Barbie e Ken? Ma come, K? Ma come? Cosa? Drago, sono i camperisti più famosi del mondo. Ma chi? Barbie e Ken. Barbie e Ken. Solo che il camper di Renzi non è bello come quello di Barbie e Ken. No. Per esempio, la carrozzeria del camper di Renzi ha una scritta laterale in stampatello. Matteo Renzi adesso, punto esclamativo. Suo slogan, sì. Su anonimo fondo bianco. Vabbè, cosa deve fare? Vogliamo partire da lì? Non è neanche glitterata, no? Ma come? Ma è cheap, ma perché... adesso? Ma cosa adesso? Mi piace Barbie e Ken con che camper girano, scusa? Un camper all pink. Cioè tutto rosa? Sì, ma nella comunicazione dicono proprio all pink. Vabbè, all pink. Vabbè, camper. Ma non solo pink. Perché il camper di Barbie e Ken può essere personalizzato con una serie di fantasiosi adesivi. Ma come parli? Ma è decisamente glamour. Ho capito, ma Renzi ha delle necessità elettorali che la coppia di Bambolotti invece non ha, insomma. Il camper di Renzi. Sono banali. Sono banali. Sala riunioni, postazioni per il PC, un solo frigo bar, un po' sfigatino, così. Vabbè. Si dorme sopra la cabina di guida, cioè, vabbè, Barbie invece naviga nel lusso. Barbie. Nel camper di Barbie c'è un living con TV, schermo piatto, no? Sì, naturalmente, vabbè, un divano che si trasforma in letto king size. Intanto quei due bambolotti non fanno molta attività. E poi c'è una vera cucina con frigo, Drago. Sì. Forno, microonde, lavandino, tavolo da pranzo che scompare. Sì. Ma la vera sorpresa è nel bagno. Vabbè, il bagno così del accessoriato da sembrare una spa di bellezza. Vabbè, ma cosa vuol dire? Nel suo bagnetto, Renzi, al massimo cosa fa? Si fa la barba con un rasoio di quelli usegetta. Si mette anche le cremine per far andare via i nei. Vabbè, ho capito, però resta il fatto che Renzi, girando in camper spesato dalle donazioni dei suoi elettori, sta facendo una bella figura di politico che si muove per incontrare la gente. Poi tu puoi fare tutto quello che vuoi. Vabbè, il messaggio che lancia è sbagliato, Renzi, perché il suo camper va a gasolio e quindi inquina. Il camper di Barbie invece è completamente ecologico, no? In che senso? Ma come in che senso? È impatto zero. Impatto zero. E certo, lo spingi con la mano, brum, brum, brum.